mentre stai trovando la tua posizione per sentirti completamente a tuo agio. E mentre ascolti la mia voce, puoi lasciare che il tuo corpo fisico cominci a rilassarsi profondamente. Ad ogni espirazione. Ad ogni espirazione, quando l'espirazione finisce, c'è un momento di pausa, prima di riprendere a respirare. E in quella pausa, dall'inizio di quella pausa, c'è un effetto particolare nel corpo. Il corpo rilascia le tensioni. Proprio così. Oggi lavoreremo su una tua cosa molto antica, che riguarda l'epoca in cui eri bambina, in cui avevi un grande desiderio di avere un cagnolino e la tua famiglia, tuo padre e tua madre, non furono mai d'accordo e il tuo desiderio del cagnolino era collegato a una mancanza che sentivi in quella famiglia. Il cagnolino da adesso in avanti lo useremo come nome per indicare quella particolare sensazione che nel corso della tua vita intervenuta di tanto in tanto, nei momenti di carenza, nei momenti di mancanza, nei momenti in cui percepivi abbandono, reale o immaginario, interno o esterno. Ed è qualcosa che ha condizionato la tua esistenza, portandoti a fare scelte molto forti, proprio così. E ora il tuo corpo, come prima cosa, può lasciare andare tutte quelle tensioni accumulate allora, nel corso di tutta la tua vita, in conseguenza di ciò che è successo allora. E che necessita e si è lasciato completamente andare adesso, in modo che il tuo corpo, le tue emozioni, la tua mente siano completamente libere da quel passato, da quel condizionamento. Questa è la prima cosa, che il tuo corpo possa, proprio così, seguendo proprio così il naturale processo di guarigione, trovi la sua strada per poter mollare tutte quelle tensioni collegate con questo nucleo di sofferenza e dolore. Proprio così. Proprio così. Io chiedo alla tua mente profonda di aiutare il corpo fisico a trovare tutti quei movimenti, tutte quelle posizioni che possono facilitare il rilascio completo, l'abbreviazione piena e totale di quei vecchi vissuti. Chiedo alla mente profonda di utilizzare anche i sogni, le immagini e tutto ciò che può essere più utile per condurre quelle esperienze interiori che portino a una totale e piena guarigione di quella vecchia ferita. Puoi prenderti tutto il tempo che ciò possa venire. Esperienze interne. Rilascio, sciogliere, lasciare andare tutto ciò che non serve più. Fino al punto in cui il tuo corpo può sentirsi al sicuro. Avvolto da una luce dorata, tiepida, morbida, calda, proprio così. Adesso per procedere in questo lavoro con più precisione, chiedo alla tua mente profonda di darmi a vedere il suo segnale del sì, un piccolo, sincero movimento inconscio. Ok, completo così, sì, va bene, proprio così, yes, così ancora, sì, sì. A livello sempre più profondo, nel nucleo dei tessuti, in tutto il sistema nervoso. Così. Più così. Alla radice. Ancora così. In modo che tutto ciò che è contratto possa sciogliersi e affidarsi a un'intelligenza e a un amore più grande. In modo che alla fine di questo lavoro Carolina sarà libera per sempre dalla paura di fondo. E possa trovare dentro di sé la radice vera. Solidità e forza nel senso di connessione con tutto ciò che c'è. Proprio così. Tutto ciò che c'è da lasciare andare. Essere visto, riconosciuto, lasciato andare. Riconoscendo nella natura, istante per istante, e se c'è rabbia, che la rabbia possa essere espressa nei modi più adatti, perché possa essere totalmente liberata nelle sue radici. E l'energia così recuperata possa essere messa davvero al servizio. Ciò che è importante è proprio così, proprio così, proprio così, esatto. Sì, esatto. Sì. Fantasie, sogni, azioni immaginarie, tutto ciò che è necessario. Mente profonda può aiutare Carolina a sciogliere tutto ciò che è ancorato alla rabbia, alla furia, alla distruttività. Okay. Tutto ciò che ha costituito un blocco, qualcosa che l'ha soffocato. Le ha impedito di essere totalmente libera, con una visione limpida e chiara di ciò che è importante. Proprio così. Molto bene. Chiedo alla mente profonda di continuare questo lavoro. Che tutta questa zona che adesso toccherò sia completamente libera da ogni tensione del passato. In cui si accumulano rabbia, dolore e paura. Fanno parte della stessa unità di emozioni. Oh, proprio così. Sono persone che quando lasciano andare la rabbia hanno visioni tremendamente distruttive. Saltano i palazzi, le città, tutto quello che è stato costruito va per aria. Possiamo immaginare che la guerra è questa. Chiedo alla tua mente profonda se vuole andare avanti o vuole fermarsi. Vuoi fermarti? Ok, andiamo avanti. Vai avanti, avanti, avanti. Avanti, avanti. Questo è il tuo processo di liberazione. Qualche minuto di questo e sei libera per sempre. Non ne posso più, giusto? Queste forme di costrizione che bloccano la visione, bloccano la percezione corretta della realtà. Impediscono di essere totalmente in contatto. Proprio così. E puoi cominciare a osservare tutto ciò che accade da una metaposizione, dall'alto, e osservare come tutto questo processo, un processo di autentica guarigione, che va alle radici. Tutto ciò che ti ha impedito nella vita di esprimere totalmente te stessa, essere totale e pienamente contenta. Tutti i condizionamenti, tutti i divieti, tutti i grigiori, tutte le burocrazie che da bambini in poi hanno invaso lo spazio intorno alla tua anima gentile. L'importante è che tu riconosci fino in fondo la qualità interiore della tua anima. Si esprime nella straordinaria dolcezza, tenerezza e capacità di compassione per tutti gli esseri sofferenti, a partire dai più fragili e dai più deboli. E questa qualità interiore, che è davvero il tuo daimon, essere messa al servizio della tua immediata e totale guarigione. Nel momento in cui questa qualità interiore di dolcezza, tenerezza, compassione possa diventare una fonte di luce che si irradia dal tuo centro del cuore, in ogni parte del tuo corpo, tutto intorno a te, lasciando andare tutto quello che ha impedito a questa meravigliosa luce di potersi esprimere pienamente, tenendoti lontana in parte dal processo pieno della vita. Ora, come essere umano, certamente puoi uscire da te e osservarti dall'alto o da qualunque posizione che ti consenta di vederti dall'esterno, in modo da assumere una chiara posizione di testimone di ciò che sta accadendo dentro di te. E da quel punto, da quel luogo di consapevolezza, osservare con molta benevolenza, dolcezza e tenerezza tutto quello che sta accadendo dentro di te e intorno a te, come parte di un processo molto profondo, di radicale e totale trasformazione della tua esistenza. E da quel punto puoi imparare ad osservare con tenerezza e dolcezza tutto ciò che sta accadendo dentro di te adesso, come un momento straordinario di un processo che è in atto da tanti anni e che finalmente giunge alla sua piena risoluzione. E da quel punto di osservazione puoi cominciare a percepire un diffuso senso di pace e serenità che deriva da una visione grande, dalla visione che la grande mente può avere del percorso umano, che soltanto la mente, grande mente, sa accogliere e abbracciare ogni cosa così come è nel momento presente. È perché soltanto la grande mente è in grado di amare davvero. E ora tu, da quella posizione, osservando te stessa, puoi comprendere qual è il processo attraverso cui puoi portare guarigione ad ogni cellula del tuo corpo e anche alla psiche di ogni cellula del tuo corpo, perché le cellule hanno una psiche, hanno dei sentimenti, hanno delle emozioni. E tu come leader dei tuoi 50 trilioni di cellule, puoi finalmente dar loro la buona novella che ogni cellula del tuo corpo sarà vista e riconosciuta. Gli sarà data la possibilità di esprimere pienamente chi è, in armonia col progetto della scintilla divina che alberga al tuo interno. Quando si attraversano delle rapide, un fiume in piena e finalmente si raggiunge l'altra riva. Puoi cominciare a rilassare, davvero. Ora non so se hai già raggiunto l'altra sponda o ti ci stai avvicinando. Quello che so è che l'altra sponda c'è. E quello che so è che tu hai la forza di raggiungerla. Chiedo alla tua mente profonda di completare questo processo di rilascio. Proprio così. È come una molla che finalmente non è più trattenuta e può di nuovo assumere la sua forma originaria. Come un elastico che non è più tirato. Come un albero che era piegato sotto un peso e finalmente il peso si stacca. Adesso per condurre il lavoro con maggiore precisione, chiedo alla tua mente profonda di farmi gentilmente vedere il suo segnale del sì. Molto bene. Un piccolo e sincero movimento. Grazie. Ok. È il segnale del no. Grazie. Chiedo adesso alla mente profonda se c'è ancora oggi spazio per lavorare. Molto bene. Ha bisogno di un po' di tempo mentre io sto in silenzio. Sì o no? Sì, ok, fantastico. Benissimo. Posso continuare adesso? Benissimo. Il lavoro di rilascio delle emozioni antiche è completato? Benissimo. C'è bisogno di pulire il passato ancora? Benissimo. sotto qualche altro aspetto, che non quello somato-emozionale. In questo momento sì e no. È importante adesso cambiare tutta la storia della vita con nuove decisioni. Vediamo. Sì, ok. Allora, in conseguenza di quello che è accaduto allora, Carolina ha preso alcune decisioni disfunzionali per la sua vita, ha assunto alcune convinzioni disfunzionali, giusto? Yes. Vediamo quante sono. Più di tre? Sono più di cinque? No. Sono cinque? Benissimo. Cominciamo dalla più importante di tutte. Una volta che l'ha trovata, segnale del sì. Benissimo. Benissimo. Adesso chiedo alla mente profonda di far fare a Carolina tutte le esperienze più adatte perché possa cambiare quella decisione, da allora fino ad oggi. Ma puoi mandare le persone migliori che conosce in passato per aiutare quella bambina, fare tutto ciò che sa in modo che alla fine di questa esperienza quella decisione si è cambiata. Quella decisione va sostituita con una totalmente sana. Ok? Che sostenga totalmente ciò che è vivo in Carolina. Vediamo se adesso questa decisione è stata cambiata. Sì, molto bene. Ora bisogna rivivere tutta la vita da allora fino ad oggi, portandoci dentro questa nuova decisione, vedendo come tutta la vita cambia. Cominciamo dal cambiare alcuni episodi con questa nuova decisione, partendo dal momento in cui è stata presa. Quando questo lavoro è completato, segnale del sì. Qualunque difficoltà, segnale del no. Sostituire la vecchia decisione con la nuova, portarla su tutta la linea del tempo. Proprio così, esatto. Questo è un segnale molto importante, che ci indica qualcosa che ha a che fare col profondo ascolto dei propri bisogni profondi, di ciò che è veramente essenziale. Un segnale che indica la decisione di prendersi davvero cura di sé. Che in termini evolutivi significa prendersi davvero cura e di ascoltare davvero sé, a partire da sé, dalle proprie parti interne e le persone intorno. Proprio così. E questo indica quanto questa nuova decisione sia veramente un balsamo per la vita di Carolina, in grado di guarire alla radice tutte le sue relazioni, quelle con le parti interne, col corpo, i propri bisogni, ma anche le relazioni con le attività, con ciò che le piace, con ciò che desidera, perché non siamo monadi, ma siamo sempre parte di relazioni. E la cura non è della monade, ma della qualità, della musicalità, dell'armonia, della dolcezza e della forza del tessuto relazionale in cui viviamo istante per istante nella nostra vita. Quindi un cambiamento totale di prospettiva mentale e un'apertura del sesto chakra, la visione. Guardare in profondità significa guardare ciò che c'è tra, ciò che intercorre tra, non i singoli oggetti, non le singole persone, ma sempre soltanto la trama relazionale della rete della vita, di ciò che è vivo. Questa visione praticando questa visione allora si è nella realtà vera dietro le apparenze codificate dalla nostra cultura. E la conseguenza di una tale visione è un senso di serenità e di pace, profonda, virgola, qualunque cosa accada. Senza cause, senza condizioni, perché la vita è un fiume che fluttua, che si muove. E nella visione occidentale noi siamo dei ramoscelli fragilissimi sulla superficie di questo fiume, piccole imbarcazioni, sempre in pericolo di andarci a schiantare, di essere sommersi e distrutti, mentre in una visione profonda noi siamo le gocce del fiume e quindi non abbiamo mai nulla di reale da temere. Nel momento in cui siamo in connessione profonda, noi siamo la realtà, noi siamo il fiume e siamo il complesso movimento delle onde e delle acque del fiume. Non siamo qualcosa di diverso, siamo il fiume. Comprendere a livello profondo la realtà fino ad oggi è dato a poche persone. E ora sono sicuro, conoscendo la qualità anteriore di Carolina e la sua profonda aspirazione alla saggezza, che Carolina è una di queste persone che oggi può comprendere e apprendere pienamente la visione trasmessa dai grandi maestri. Coloro cioè che avevano occhi per vedere, orecchie per ascoltare e un cuore tenero che batteva per qualunque foglia che si muoveva. E nello stesso tempo la grande forza di tenere tutto insieme. Adesso chiedo alla mente profonda se c'è ancora spazio di lavoro. No, benissimo. Chiedo ancora alla mente profonda se ha bisogno di ancora un po' di tempo prima di uscire dalla trance. No. Ok. Allora il lavoro è completato per oggi. Io ringrazio la mente profonda di Carolina per la collaborazione, la fiducia, l'apertura che ha mostrato nell'essere totalmente qua, totalmente presente, totalmente partecipe. Aperta davvero ai messaggi della grande mente, è capace di disidentificarsi dai messaggi continui che ognuno di noi riceve dalla piccola mente. Così adesso io conterò da 1 a 6 e Carolina potrà ritornare qua. Riaprendo gli occhi. Uno, due, portandosi dietro, tre, un senso di comprensione sempre più largo, quattro, di quello che è il processo nascosto, cinque, della rete della vita, di tutte le relazioni dell'interessere di cui è composto il nostro universo umano, fisico, emotivo, mentale. E sei.